Palla Spicchi con Carlo Genta. Buonasera a tutti, e la corsa verso il secondo posto del campionato di pallacanestro diventa davvero un rebus, oggi inestricabile. Questi i risultati della giornata. Ieri Pesaro che vince un confronto diretto importantissimo in chiave salvezza con Ferrara. Poi oggi Roma che invece ne vince un altro determinante in prospettiva playoff contro Teramo, tagliando di fatto fuori Teramo in maniera secondo me definitiva da ogni sogno di playoff. È una vittoria significativa perché Roma deve dare una sistemata alla sua posizione. Adesso Roma ha davanti l'intero plotone di quelli che stanno a 32 e sono tantissimi. Perché Montegranaro ha perso a Biella di 3 punti con un ultimo canestro di Ivanov, poteva essere quello del pareggio, 3 punti non convalidato, 76-73 dopo che Biella aveva dominato in lungo e in largo il primo tempo, nel secondo ha subito la rimonta di Montegranaro. Caserta asfalta Treviso, che ho paura i playoff li vedrà in televisione quest'anno perché non manda certo buoni segnali, 90-66 il finale. Il risultato di giornata, che può innescare molte riflessioni, è la vittoria di Cantù, che non è un'avventura ma una storia vera a questo punto, perché vincere a Bologna sul campo della Virtus non è semplice. Cantù lo fa, 80-76. Milano resta in gruppo battendo Avellino, 74-63. La Montepaschi Siena batte la Vanoli Cremona con uno scarto che per Cremona è assolutamente dignitoso, meno 13, 83-70 sul campo dell'asso pigliatutto del nostro campionato. Terrorici classifica, incredibile classifica. Eh sì, perché se non desta stupore chiaramente il primato della Montepaschi Siena a 48 punti, dicevi Carlo del secondo posto, beh la seconda piazza è al momento occupata, quota 32, dalla Sigma Coatings Montegranaro, dalla NGC Cantù, dalla Pepsi Caserta, dalla Armani Jeans Milano e dalla Canadian Solar Bologna, tutti a 32 punti. Settimo posto di fatto quindi per Roma, quota 28, e Avellino, ottava, quota 26, che chiude quelle che sarebbero al momento le qualificate ai playoff. Poi Benetton Treviso a 24, a quota 20 Banca Tercas Teramo, Cimberio Varese, Angelico Biella, 18 punti per Scavolini, Spar Pesaro e Vanoli Cremona, 16 per Carife Ferrara, meno 8 per Napoli. Stefano Valenti per Superbasket ha fatto la doppietta in questo weekend, ieri a Ferrara e oggi a Bologna. Buonasera Stefano. Ciao Carlo, sono amatissimo dalle viaggianti, tra l'altro. È vero, ti vogliono sempre quando giocano in trasferta, ma Cantù è una storia vera. Sì, Cantù è una storia vera, è la storia di una partita che Cantù ha giocato con intelligenza, sfrutto le parole di Andrea Tinchieri, ma è vero, perché è rimasta sempre attaccata alla partita nel momento più difficile, quando è finita sotto di 7, ma si era ancora, diciamo, nelle prime battute. La Virtus stasera ha fatto una grande fatica, in attacco ha trovato grandi difficoltà, Lardo ha provato con rotazioni ma ha avuto notizie poco edificanti dai suoi terminali, in particolare David Moss ha giocato una partita molto insipida, Andre Collins nel finale ha lanciato in tribuna un pallone che valeva oro nel tentativo di ridurre il gap che Cantù ha scavato praticamente tutto nell'ultimo quarto. Si era entrati a giocare appunto nel parziale finale sul 58 pari, parziale finale in cui gli eroi di Cantù sono stati tre, Jerry Green, Martti Loinen che ha segnato 7 punti e anche Vladimir Mikov con i suoi 5. Sono stati quelli che hanno segnato o i canestri decisivi o i liberi decisivi, anche se la giocata determinante sull'ultimo possesso Virtus, palla a Vucevic che ha cercato l'uno contro uno, è arrivata da Michele Mian, molto bravo sul raddoppio, ha strappato la palla in maniera assolutamente corretta a uno dei leader della squadra di Lardo, se n'è andato dall'altra parte del campo 3 secondi alla fine. Tutto è finito lì, è finito probabilmente anche il sogno della Virtus di agganciare il secondo posto, perché la situazione di parità che si è venuta a creare è sicuramente penalizzante per la squadra di Lardo. Stefano, la prima volta che la Virtus, squadra più regolare tra le altre, Siena a parte naturalmente, è forse la prima volta che perde una partita di questo peso specifico? Sì, per certi versi perde la sua partita, nel senso che è stata una partita che comunque come dire, è tra due squadre che sfruttano scientificamente quello che hanno a disposizione, che non è non risponde al nome di fenomeni assoluti del parquet, grandi realizzatori, ma risponde nel caso di Cantù a un gioco molto con grande equilibrio di squadra, dove tutti hanno le proprie responsabilità, dove sicuramente Martiloinen è il giocatore di maggior talento, ma poi ripeto, c'è stato il momento di Marcus Billy, c'è stato il momento di Jerry Green, c'è stato il momento di Horner, un po' quello che la Virtus ci ha abituato a vedere in questa stagione, meritandosi di salire fino al secondo posto, dove però adesso è arrivata anche Cantù, che si porta il 2-0 sulla Virtus, così come la Virtus ha lo 0-2 con Milano, e questo potrebbe essere veramente pesante nel tentativo di inseguire almeno uno delle prime quattro posizioni, e quindi il vantaggio del fattore campo del primo turno di playoff. Quanto alla corsa salvezza, la partita di ieri sera, dopo la sconfitta di Ferrara, dalla stanza dei bottoni di Ferrara sono uscite accuse molto pesanti nei confronti della squadra, dell'allenatore, di tutto sì. Quanto. Sì, sono uscite accuse molto pesanti, latenti, non c'è nulla di nuovo per certi versi, forse la tempistica non è stata ottimale. Stiamo restando che Ferrara ha sbagliato completamente l'approccio alla partita, e invece bravissimo Dal Monte a mettere la sua squadra in un acquario, proteggerla da quello che era un vero e proprio spareggio e presentarla in campo con grande serenità e grande fiducia in quello che doveva fare sul parquet. Lo testimonia il fatto che Pesaro al 26esimo di gioco aveva il 71% da tre punti su 14 tentativi, cercando sempre la soluzione giusta, e nel momento in cui Ferrara si rifaceva sotto, trovando o il canestro da tre o il canestro da due, la giocata che poi rimetteva Ferrara sotto i piedi. Con quel risultato, quindi in conseguenza lo 0-2 con Pesaro e la vittoria di Biella di oggi, praticamente ci dicono che Ferrara è veramente a un passo dalla sentenza. Grazie Stefano, buon lavoro. Grazie a voi, ciao. Alla prossima, grazie Stefano Valenti. Dario, diamo insieme un'occhiata a questa vittoria di Biella su Montegranaro, che dopo il primo tempo lo stavamo raccontando prima in diretta, sembrava partita scritta a favore di una Biella che aveva un disperato bisogno di vittorie a questo punto, perché era in una posizione non buona anche in prospettiva salvezza. Oggi la trovate questa vittoria contro Montegranaro. Eh sì, partita che all'intervallo registrava un parziale di 42-25 per i piemontesi, poi Montegranaro si è rifatta sotto fino al 76-73 con il finale che abbiamo raccontato. Uno sguardo ai tabellini, il tabellino di Biella, 24 punti per Joe Smith, 27 di valutazione, frutto di un 5 su 7 da 2, 3 su 7 da 3 punti, 3 rimbalzi e 5 assist. Da sottolineare anche i 15 punti di Pietro Aradori, 4 su 4 da 2, 2 su 5 da 3, ma anche 6 palle perse, e poi i 13 di Luca Garri, che ha aggiunto anche 4 rimbalzi. Spiccano i 10 rimbalzi e i 6 punti di Pervis Pasco, ma soprattutto il 74%, 20 su 27 di Biella da 2 punti. Per quanto riguarda Montegranaro, invece, non basta la straordinaria prova di Maestranzi, straordinaria fino a un certo punto perché ormai ci ha abituato a prestazioni del genere, 20 punti per 31 di valutazione con 1 su 5 da 2 e 4 su 7 da 3 punti, 6 rimbalzi e 6 recuperi oltre a un assist, poi 15 punti per Zalzaris, 14 per Brunner e 13 per Ivanov, con Montegranaro che, cosa insolita secondo per le abitudini, ha perso la lotta al rimbalzo, 30 a 25 il totale. Dicevo prima che Treviso non ha l'aria di chi farà i playoff. Oggi la sconfitta a Caserta di quelle pesanti anche in termini numerici, io credo. Carmelo Prestisimone da Caserta, buonasera. Sì, Carlo, buonasera. Esatto, una sconfitta decisamente pesante per Treviso e una vittoria importante per la Pepsi, che vince soprattutto grazie al suo dinamismo decisamente cresciuto rispetto alla partita al Palamaggio contro la Virtus. Buona la circolazione di palla, ottima anche la gestione dei due playmaker di Bella e Kozarek, 5 giocatori in doppia cifra, tra cui anche Martin, che è la novità. Gli avversari, Treviso mai in partita, sono apparsi molto nervosi, 2 falli tecnici fischiati, espulsione del coach Repesa, molto bene tra i veneti Alessandro Gentile, il figlio d'arte, il figlio di Nando Gentile, che qui con Caserta ha vinto uno storico scudetto nel 91, Gentile segna 23 punti con percentuali importanti, 5 su 6 da 2, 4 su 6 da 3 punti, per il resto il solo Dixon gioca una partita dignitosa, 11 punti per lui, male tutti quanti gli altri, una partita quindi semplice per Caserta che appunto vince con 24 punti di vantaggio, 5 come dicevo poc'anzi gli uomini in doppia cifra, Di Bella 17, Bowers 20, Ere 17, Martin e Jones 12 punti, importante anche il solito lavoro a rimbalzo di Michelori, un giocatore sempre utile, sempre efficace, e finisce quindi nel tripudio generale con i giocatori di Caserta che vanno a salutare i tifosi nella curva Ancillotto. Grazie Carmelo Prestesimone, dunque, per questa vittoria di Caserta su Treviso, che prova a consolarsi appunto con la prova di Gentile, con poco altro in realtà. Ci fermiamo per il traffico, subito dopo diamo un'occhiata alla vittoria di Siena su Cremona e andiamo a Milano perché l'Armenia è tornata a vincere, lo ha fatto in una partita estremamente pesante in prospettiva griglia playoff. Palla spicchi. Devo dire che il derby di Genova inizia con un quarto d'ora di ritardo causa incidenti che si sono verificati fuori dallo stadio, dunque bisogna aspettare ancora un po' per Genova-Sampdoria. Intanto parliamo di basket, continuiamo a parlare di basket, partite in bilico più del previsto. Sì, a Siena, sì, sì. È vero 58 a 45 all'ultimo intertempo prima dello sprint di Siena, che comunque un po' di fatica l'ha fatta contro Cremona. Eh sì, Cremona ottiene l'onore delle armi con questo 83-70 finale, Carlo, come ricordavi, diciamo, poi i 13 punti di vantaggio sono stati un po' una costante dall'intervallo fino alla sirena finale. Per quanto riguarda il tabellino dei campioni d'Italia, 13 punti per Terrell McIntyre, 2 su 3 da 2 punti, 3 su 6 da 3, ma anche 3 perse, 3 assist in 23 di gioco, 17 punti per Lavrinovic, 0 su 5 da 2 però dato insolito, 11 rimbalzi però e 25 di valutazione, 12 punti per David Hawkins e 9 di Carraretto in 18 minuti venendo dalla panchina. Cremona, 19 punti per Troy Bell con 26 di valutazione, 0 su 2 da 2 punti, 4 su 10 da 3, 7 su 8 ai liberi e anche 6 rimbalzi, 4 recuperi e 3 assist, 16 per Cousin che sembra in ripresa, no? Dopo una stagione altanelante, 16 in 27 minuti, anche 10 rimbalzi, 14 per Rashard Henderson. Cousin è andato a mettersi in mostra di fronte al prossimo, anzi all'attuale CT della Nazionale, suo probabilissimo prossimo allenatore, si incontreranno quest'estate, insomma. E suppongo di sì, anche se Cousin, dicevi bene prima, ha avuto una stagione difficile, compresi un sacco di infortuni. Andiamo ora alla vittoria di Milano su Avellino, era una partita da non sbagliare per l'Armani, bravi loro questa volta, non l'hanno sbagliata, no Roberto Nardella? Sì, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Come dici giustamente tu, Carlo, Milano non sbaglia la partita casalinga contro l'Aira di Avellino, battuta 74-73, un match brutto che inizia con un primo quarto che vede l'Olimpia avanti 15-9 con Milano che tira 5 su 16 dal campo, Avellino fa addirittura peggio con 3 su 12, poi la partita sale un po' di colpi nel secondo periodo, Milano allunga fino al 20-11, però poi dopo Avellino con Brown, Cortese e soprattutto col canestro di Dilevic supera sul 23-25, sarà poi dopo l'ultimo vantaggio ospite in tutta la partita perché Milano chiude il primo tempo con un break di 11-0 che vale il 36-31 di metà gara. Nel terzo quarto qualche scaramuccia tra Brown e Mordente però prontamente sedata dai compagni di squadra non impedisce a Milano di allungare ancora con Massimo Bulieri fino al 55-43 del terzo periodo. Trautmann in alley-oop porta a meno 9 per l'ultima volta nella partita Avellino, poi è praticamente uno show personale di Massimo Bulieri, 3 su 4 per lui nel terzo quarto, 11 punti per il playmaker originario di Cecina, 16 saranno i suoi punti finali. Milano scappa via e chiude 74-63. Nel segno del bullo, dunque, del bullo che invece in questa stagione è tornato a fare cose molto importanti. Grazie a Roberto Nardella. Adesso voglio, per completare il quadro dei risultati, poi mi è già scappato l'occhio sul prossimo turno, no? Perché sono molto curioso di capire come si scioglierà la grande ammucchiata. Sì, tra l'altro non c'è nessuno scontro diretto tra tutte queste seconde nel prossimo turno, molto stranissimo. Volevo, per completare i numeri, darvi i risultati anche di Lega 2, che sono questi. Anche qui, 12ª giornata di ritorno, dunque siamo al rush finale pure in Lega 2. Ieri Brindisi che batte Pistoia, poi oggi Udine che supera Casale Monferrato per un punto, 64-63, Venezia che batte Veroli 81-62, Pavia che torna a vincere in trasferta dopo un sacco di tempo, 83-68 a Imola, quindi Reggio Emilia involata al photo finish su Sassari 83-81, importante questa gara perché tutte e due sono impegnate nella battaglia per le prime posizioni. Latina perde in casa ormai rassegnata contro Scafati 82-89. Di due la vittoria di Casal Pusterengo su Iesi 77-75, vittoria in trasferta anche per Vigevano a Rimini 80-75, Brindisi 40 e con un sogno in testa. Io ho l'impressione che gli servirà un palazzetto bello grosso per il finale di stagione a Brindisi. Quindi Sassari 36, Reggio Emilia 34-32, non c'è la grande ammucchiata, ma ci sono comunque tre squadre: Casale, Monferrato, Udine, Veroli. 30 per Vigevano, 28 per Pistoia, Casal Pusterlengo, Rimini e Scafati e Imola 24 punti, quindi in coda Iesi, Venezia 20, Pavia 18, Latina 14. Questa è la situazione in Lega 2. Saluto e ringrazio Flavio Tranquillo, appena sbarcato dall'aereo che lo ha riportato da Teramo. Ciao Flavio. Buonasera. Buonasera a lei. Partiamo dalla gara che hai commentato per Sky, questa vittoria di Roma che è un tassello importante per la classifica di Bonicioli e Company. Guarda, io penso che per la classifica sia un tassello importante, molto importante. Per quello che riguarda le conferme che stanno probabilmente cercando è relativamente importante, nel senso che non ci dice che saranno in condizione di fare il salto di qualità, però per poter fare il salto di qualità devono essere tranquilli di raggiungere i playoff e questi due punti sono importantissimi. Che te ne pare della grande ammucchiata? Mi pare che fosse nelle carte dall'inizio, che fosse nelle carte da molto tempo, che sia una grande ammucchiata frutto di un livellamento verso il basso. Però è una grande ammucchiata, è a 4 giornate dalla fine, si lascia guardare. Sì, non è male. Flavio, invece questa situazione della Benetton Treviso, c'è futuro per Repesa su quella panchina? Risultati e attitudine generale direbbero di no. Beh, certo è difficile immaginare un futuro vista la piega che hanno preso le cose. Però è anche vero che Repesa non ha iniziato la stagione l'ha iniziata Vitucci. La squadra è stata presa, cambiata, ricambiata, gli obiettivi presi, modulati, rimodulati. Mi sembra che l'unica cosa sicura è che non è questione di Vitucci, di Repesa, di Neil, di Gentile, di Tizio, di Caio, ma è questione di qualcos'altro. Le due facce di questa giornata in testa e in coda sono quelle, secondo me, di Cantù e di Ferrara. Cantù che ride, vince una partita cruciale a Bologna, dimostra che è una cosa vera. Ferrara che perde, piange e si arrabbia come suo presidente Mascellani. Guarda caso, nel prossimo turno, una contro l'altra armate a Cantù. Il che non significa che Cantù debba passeggiare domenica prossima, però è chiaro che sono dimostrazioni di come per essere appena sopra, appena sotto o dentro quell'ammucchiato sia questione di sfumature. Sfumature perché se mettete i nomi dei giocatori su un foglio di carta non credo che si possa fare questa differenza. E garantisco io, Trinchieri è veramente un eccellente allenatore, ma Giorgio Valli è un eccellente allenatore. Benetton Treviso Bologna, sempre guardando al prossimo turno, sarà un'altra partita cardine. Per Bologna che oggi ha perso e che si vede scivolare via dalle mani anche per il gioco dei confronti diretti, il secondo posto, un secondo posto che sognava, anche se Montegranaro oggi è di nuovo rallentato. Bologna va a Treviso e Treviso, credo Flavio, lì si giocherà le ultime chance quasi. Ah, sicuramente, di playoff sicuramente. Bologna penso che possa andare col cuore un po' più leggero, perché secondo posto senz'altro è importante, ma non lo vedo come così necessariamente decisivo. quello che è importante, se tu ambisci ad andare in finale, mi sembra più evitare la parte di tabellone di Siena che non necessariamente arrivare secondo piuttosto che terzo piuttosto che sesto. Vale la pena ricordare, prima di salutarci Flavio, che i playoff sono già praticamente iniziati dall'altra parte dell'oceano. È una partita di playoff Toronto contro Chicago che vedremo questa notte, se non ricordo male, a mezzanotte. No? Mezzanotte italiana, quella è già una partita di playoff e comunque c'è una situazione intricata che altro la mucchiata, che la mucchiata di 4-32. Sì, spareggio playoff, anche se... comunque la stagione di Bulls e Raptors rimane più di ombre che di luci, chiunque vinca stasera e chiunque vada ai playoff, perché se dovessero vincere i Raptors sono quasi dentro, se dovessero vincere i Bulls comunque hanno il tiebreaker negativo, quindi non hanno risolto definitivamente la questione. Una va ai playoff, l'altra sta ferma, però avrebbero potuto, dovuto e voluto fare di più tutte e due. Anche per il resto, anche dall'altra parte dell'America, sull'altra costa, molta incertezza, molta indecisione. E poi io credo che ci sia la mina vagante sporsa ancora in giro, no? Per chi vuole vincere il titolo. Beh, se tu pensi che 6-7-8 saranno sicuramente Oklahoma City, San Antonio e Portland, non sappiamo in che ordine, ecco quello livellamento un po' più verso l'alto. Grazie Flavio, buon lavoro, sentiamo venerdì. A voi. Grazie Flavio Tranquillo. Dunque, ripetimi a che ora è? Mezzanotte italiana, Chicago ospite di Toronto. Tra l'altro il calendario favorisce Toronto, che dopo lo scontro diretto andrà a Detroit e chiuderà in casa con i Knicks, quindi derby italiano. Vediamo se Gallinari è d'accordo a lasciare i playoff al Mago e al Beli, mentre Chicago ospiterà Boston, tra l'altro reduce da una clamorosa sconfitta in casa contro Washington, una delle ennesime clamorose sconfitte di questa stagione dei Celtics, e poi finirà a Charlotte. Sì, anche se Toronto nelle ultime giornate ha cominciato ultime a sparare 4 KO consecutivi, sta un po' sparando sui piedi, anche perché non c'è Bosch, ma oddio, devo dire che, appunto, l'ha detto anche Flavio, l'annata è stata veramente grigia. Così. Vi voglio anticipare che con ogni probabilità venerdì avremo un bel regalo per gli appassionati di pallacanestro, perché siamo mezzi in parola per un paio di interviste eccellenti ad Antoni e a Danilo Gallinari, quindi non perdetevi la prossima puntata di Pallaspicchi venerdì su questi schermi dalle 2 alle 3 e lì ci risentiamo. Grazie a Dario Ricci, grazie a Giorgio De Luca per il lavoro in redazione, a Roberto Scaltritti in regia. Buona serata.